Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Avere il coraggio della diversità, essere se stessi al di sopra di tutto, perché solo questa è la strada possibile per la felicità. Il messaggio di Englishman in New York risuona chiaro nelle orecchie di tutti da quando nel 1987 Sting ha voluto cantarlo al mondo. Una vera e propria urgenza che ha cominciato a insistere nella testa della rockstar dall'incontro con l'uomo che ha ispirato il pezzo, Quentin Crisp. Stravagante attore, modello e autore satirico, Quentin Crisp diventa un'icona gay negli anni 70, dopo la pubblicazione delle sue memorie dallo sfrontato esibizionismo, scritte apposta come manifesto dell'orgoglio omosessuale, dal titolo Il funzionario nudo. Sting le legge, va a vedere la rappresentazione teatrale tratta dall'opera e decide di incontrarlo. Lo chiama senza pensarci troppo. Sa, perché lo sanno tutti, che Crisp non rifiuta mai una conversazione al telefono. Per i primi 20 anni in cui aveva avuto un apparecchio telefonico, rispondeva a tutti con «Sì, Dio?», perché a suo dire bisognava sempre essere preparati. Poi era passato a un meno impegnativo «Sì?», pronunciato in falsetto. Qualcosa che lo rendeva riconoscibile immediatamente, anche se a migliaia di chilometri di distanza. «Sì? Ah, certo, Sting. Com'è che era il gruppo? Ah, sei Police. Ah, sì che possiamo incontrarci. Ah, però io non vivo più a Londra, mi sono trasferito a New York. Ah, venga a trovarmi a casa. L'avverto però che io campo soltanto grazie ai party. Non è difficile, sa? Basta imparare a nutrirsi solo di champagne e noccioline. Allora, ci pensa lei alla cena?» In una gelida giornata di dicembre dell'86, Sting prende un aereo dall'Inghilterra e vola nella Grande Mela. Tutto intorno a lui parla di Natale, gli addobbi alle vetrine dei negozi, l'imponente albero del Rockefeller Center, i ragazzi vestiti da Santa Claus che per arrotondare donano caramelle e dolcetti ai bambini che ancora credono nell'incantesimo. Sting prende un taxi, si fa portare a Manhattan, Lower East Side, e suona il campanello di Quentin Crisp. Gli apre lui in vestaglia di seta, ineccepibile anche quando si rilassa sul divano. Lo fa accomodare e inizia a raccontare. «Avevo atteggiamenti effeminati fin da ragazzino e ogni giorno era una lotta per la sopravvivenza. Intorno agli anni 30 ho cominciato a frequentare i caffè di Soho, gli unici posti tolleranti con noi. Il mio preferito era The Black Cat. Le ore ci passavamo. Ci vestivamo da donne, ci truccavamo, no, lo dico senza problemi, eh. Per un periodo mi sono anche prostituito. E che cercavo l'amore, ma ho trovato solo degrado. Nel mio salotto di Denby Street passavano i matti e i geni. Non ho mai pulito, è una perdita di tempo. E poi, dopo i primi 4 anni, la polvere non peggiora. Non sa quante pietre mi hanno tirato per strada per colpa di uno smalto alle unghie. Quando ho cercato di arruolarmi nell'esercito mi hanno detto di no, che ero un perverso. E poi... ho cominciato. Sting si ferma da Crisp per 3 cene di seguito, colpito com'è da quelle sue storie sull'omofobia inglese vista dall'interno. Decide di scriverci una canzone, Englishman in New York, appunto. Nel video, girato da David Fincher, c'è lui che cammina in una città in bianco e nero, un uomo inglese solo a New York, proprio come Crisp, che compare anche lui nel video. Uno dei tanti incontri della sua vita. Ma oggi, ai Magnifici Destini, vi vogliamo raccontare quelli che la sua vita l'hanno cambiata per davvero. Quelli che hanno cambiato la sua musica, la musica di un re da più di 30 anni sulla cresta dell'onda. Noto alle cronache, oltre che per la sua musica, per le leggende sul sesso tantrico e per il suo amore per la Toscana, dove passa con la moglie Trudy la maggior parte del suo tempo, presto Gordon Sumner diventa Sting, pungiglione. All'inizio lo chiamavano Stinger, ma poi hanno cominciato ad abbreviarlo semplicemente in Sting. Lo racconta lui stesso com'è andata. C'era un trombonista dei Phoenix Jetsmen che mi trovava simile ad un calabrone con addosso la mia maglietta di calcio a righe gialle e nere. Cominciò a chiamarmi Stinger, colui che punge, che poi abbreviò in Sting, pungiglione. Al pubblico piaceva e così mi tenni questo nome. La storia di Sting comincia a Wallsend, una piccola cittadina dell'Inghilterra del Nord con case tutte uguali e un clima rigido anche in estate, che deve il suo nome al muro costruito dall'imperatore romano Adriano per difendere l'ultimo avamposto contro la ferocia dei barbari scozzesi. Siamo alla periferia di Newcastle e c'è un immenso cantiere navale che dà lavoro a tantissima gente. Ernest Sumner, un giovane soldato di leva della fiera Royal Navy durante la guerra, si sposa alla fine degli anni 40 con la 18enne Audrey, impiegata presso un parrucchiere. Sumner ha una laurea in ingegneria, ma non se ne fa nulla in questo periodo di grave crisi e così per mantenersi dignitosamente fa il lattaio. Sono felici lui ed Audrey quando guardano il mare dal loro piccolo balconcino, mentre le persiane continuano a sbattere contro la finestra per via di un vento che non dà mai tregua. Il 2 ottobre del 1951 hanno il loro primogenito, Gordon Matthew Sumner, il nostro Sting. Audrey vuole vederlo crescere giorno per giorno e lascia il lavoro. Presto gli dà anche tre fratelli, Philip, Angela e Anita. Non mi dimenticherò mai l'immagine di mia madre al pianoforte, che immaginava di essere una grande cantante. Però il mio mentore è stata mia nonna Agnes. È stata lei a farmi appassionare ai libri. Aveva viaggiato per il mondo, collezionava un'incredibile quantità di libri e riviste. E con lei ogni lezione era un'avventura. Mi ha cambiato la vita. Curioso più della media, il piccolo Gordon riempie la nonna di domande e cerca di scavalcare come può la troppo rigida educazione cattolica. Soffre, anche se non lo ammette, di una forma di gelosia nei confronti degli apprendisti che lavorano per suo padre, che ricevono, secondo lui, molto più affetto e attenzioni. Da sua madre, soprattutto, verrebbe da dire, con una certa malizia, leggendo la sua autobiografia. Un giorno, rientrando a casa, Sting la scopre tradire suo padre proprio con uno di loro. Accompagnavo sempre mio padre a consegnare il latte. Da lui ho imparato a lavorare sodo, ad essere stoico. Da mia madre il romanticismo e la musica. Credo di essere cresciuto grazie alla combinazione di questi due elementi. Il primo impatto con il rock, in effetti, avviene grazie a mamma Audrey, che gli fa sentire il 78 giri di All Shook Up di Elvis Presley, convinta che suo figlio sia nato per seguire un destino musicale. Lo vorrebbe maestro e cerca appena può di farlo familiarizzare con il pianoforte. Il futuro Sting però non le dà soddisfazioni. Non solo non è per nulla entusiasta, ma non si impegna nemmeno, i suoi progressi sono lentissimi. Tutto cambia quando scopre la chitarra. A 9 anni e gliela lascia in eredità uno zio che sta emigrando in Canada e non può sovraccaricarsi di bagagli. Si allena da autodidatta giorno e notte, al punto che i genitori spesso sono costretti a dirgli di smettere. I Beatles hanno rotto una specie di tabù perché hanno dimostrato che si può arrivare da una città inglese, partire da zero e fare canzoni che tutto il mondo ascolta e canta. Questo sicuramente per me è stato una spinta. Diciamo che lo è stata per tutti noi della nostra generazione. Se l'indole di Gordon fino all'adolescenza è tutto sommato tranquilla, poi l'inquietudine prende il sopravvento. Bravissimo a scuola, è l'unico della sua classe ad essere accettato al prestigioso collegio cattolico di St. Cuthbert Grammar. Suo padre lo premia con una bicicletta, ma è soltanto un tentativo inutile di placare il suo spirito indomito che proprio non riesce a sottostare alle regole rigide e dittatoriali dei padri gesuiti. Per non portare la divisa, consapevole che in famiglia non possono comprargliene un'altra perché non hanno i soldi per farlo, la butta nell'immondizia. È il solo a girare orgogliosamente senza, diverso e felice di esserlo. Alza spesso la voce per ribellarsi e viene punito con le bastonate. Ma la sua intelligenza è sopra la media. Si annoia a parlare di letteratura con chi gioca ancora a biglie e per via della sua altezza, a calcio è costretto a fare il portiere. Like tears from a star. Nel 1964 Sting scopre il jazz. Dopo aver comprato i primi 33 giri in vinile, il concerto in solo di Thelonious Monk all'Olympia e Porgy and Bess, registrato dal grande Miles Davis, che diventa il suo idolo. Le sonorità jazz, difficili ma incredibilmente belle, sono la molla che fa scattare in lui la voglia di affinare la sua tecnica. Era una tortura. Non riuscivo mai a riprodurre quello che sentivo, ma mi sforzavo. Non era piacevole, né facile, ma sapevo che mi avrebbe fatto bene. Al Club Go-Go negli anni 60 passano tutte le band. Sting va a sentirle suonare con gli amici, litigando sempre più spesso coi genitori che ormai sanno di avere in casa un ribelle. Una sera, mentre lui sogna di diventare come il bassista che vede sul palco, carismatico e tecnicamente eccezionale, sua madre, in un attacco di rabbia furiosa, gli fracassa la chitarra. Il ragazzo risponde con un atteggiamento freddo e distaccato. La guarda, esce accompagnando la porta e ritorna solo dopo 2 giorni senza avere dato per tutto quel tempo notizie di sé. L'aspetto da Lord di Gordon Sumner contrasta incredibilmente con il suo temperamento caldo. Si ingegna per costruire artigianalmente con un amico un basso. Per carità, il suono non è giusto e funzionano solo 2 corde. Intanto può allenarsi e soprattutto dimostrare che la sua determinazione supera ogni ostacolo. Il futuro Sting è bello e ombroso, le ragazze perdono la testa per lui, che se ne compiace, e di tanto in tanto suona per loro. Prima di formare i Police nel 76, io avevo già scritto diverse canzoni. Le scrivevo per gli altri, che magari erano solo musicisti o compositori, ma non autori. Io riuscivo a vendere qualche pezzo già da ragazzo nel giro londinese. Nel 1967 il mondo è sull'orlo di una crisi di nervi. Ribellione giovanile, musica, lotte per i diritti delle minoranze. Mentre Martin Luther King dell'America combatte in difesa dei neri, il giovane Sumner vede per la prima volta nella sua vita un uomo di colore. Non è uno qualsiasi, è un chitarrista leggendario dalla brevissima e fulminante carriera che è entrato nella storia grazie a genio, rabbia e un inno distorto. È il primo magnifico incontro nel destino di Sting. Jimi Hendrix. Era semplicemente straordinario, con la sua capigliatura afro e quegli abiti incredibili. Era il primo nero che vedevo in vita mia. Una storia incendiaria, quella di Hendrix. Una storia brevissima e finita tragicamente. Nato in un quartiere povero di Seattle come patrimonio genetico un crogiolo di etnie, tra cui afro, irlandese e Cherokee, il piccolo Hendrix sembrava avere già un destino segnato. Lucille Jeter, sua madre, l'aveva partorito 17enne tra le lettere di un marito in guerra, l'alcol e l'aiuto economico di un amante che viveva di espedienti ai confini della legalità. L'infanzia, Jimmy, l'aveva passata sballottato di qua e di là, perché sua madre aveva sempre qualcosa di più importante da fare, uscire a bere per lo più, anziché dedicarsi a suo figlio. Lui faticava a lasciarsi andare con gli altri e si chiudeva nella musica. Era stata sua nonna che aveva fatto parte di una compagnia itinerante di vaudeville a fargliela scoprire. La musica ha un grande significato, non è solo piacere, è anche politica. La musica costruisce, è capace di arrivare dove la politica non arriva. Shoot my old lady. Le condizioni indigenti non permettevano a Jimi Hendrix di comprarsi una chitarra. A lungo ha immaginato di averne una stringendo tra le braccia una scopa e poi, copiando i bluesmen poveri, aveva optato per il cosiddetto filo sul muro, una soluzione di fortuna con del filo di metallo. Alla fine era arrivata la chitarra di un amico di suo padre che gli era permesso toccare mentre loro giocavano a carte, giusto per tenerlo buono durante la partita. Chissà se sono state proprio le difficoltà a forgiare il talento di Hendrix fino a far esplodere tutta la sua rivoluzione musicale. Di certo, quando il re del rock and roll Little Richard parla di lui, lo descrive come un vero e proprio mito immortale. Era una star. Quando saliva sul palco, era una star. La star musicale più grande del mondo intero. Non sono certo l'unico a pensare che uno come lui non ci sarà mai più. Chissà quando ne tornerà un altro sulla terra. Siccome è mancino, Jimi Hendrix comincia a suonare la chitarra al contrario. La gira e parte. È uno dei suoi marchi di fabbrica, che volente o nolente non abbandona mai. Incluso quella sera del 67 al culmine della sua carriera, quando ad ascoltarlo sotto il palco di un club di Newcastle c'è Sting. Fu una rivelazione vedere sul palco un musicista così bravo, originale e straordinariamente comunicativo. Hendrix ha cambiato la vita di molte persone che hanno sognato di diventare delle pop star. Lui è stato il primo, il più grande. E basta. L'incontro con Jimi Hendrix è per Sting una vera e propria folgorazione. Decide definitivamente che la sua vita sarà la musica. Quando il bassista dei Phoenix Jazzmen viene a mancare, entra in gioco lui, ma anziché il tradizionale contrabbasso usato nei concerti, porta il suo basso elettrico. È un successo. Il ragazzo di Newcastle inizia a suonare con i Phoenix regolarmente e sono proprio loro a chiamarlo Sting per la prima volta. È l'inizio della sua carriera. I River City Jazzmen gli chiedono di entrare a far parte del gruppo. Lui accetta e poi passa alla Newcastle Big Band, con la quale nel 72 scopre la vita comunitaria della tournée. Intanto passa brillantemente la maturità, trova lavoro come conducente di autobus e su consiglio di suo padre svolge il militare nella marina, diventando il bassista nell'orchestra di una nave che percorre il Mediterraneo. Al ritorno inizia la sua doppia vita. Impiegato in una fabbrica di condizionatori e poi all'ufficio imposte di giorno, sul palco con i Last Exit, la sua nuova band, alla sera. Scrive moltissime canzoni, tra cui Bring On The Night, che sarebbe presto diventato uno dei pezzi più famosi dei Police. Già, i Police. Perché Sting sta per avere il secondo magnifico incontro della sua vita. Molte canzoni dei Police in realtà le avevo scritte già prima che formassimo i Police. Le avevo messe in un cassetto in attesa che arrivasse il momento giusto, e quando il momento giusto è arrivato le ho tirate fuori e le abbiamo incise. Sono tre i magnifici destini che la vita ha regalato a Sting. Il primo è stato l'incontro con Jimi Hendrix, venuto a suonare nel 67 all'apice del suo successo proprio a Newcastle, la sua città. Una folgorazione, in quel momento sentendolo suonare il giovane ragazzo inglese bello, ribelle e con un'intelligenza fuori dal comune, aveva capito che la musica sarebbe stata la sua vita. Arriviamo così all'inizio degli anni 70, quando poco più che ventenne incomincia a farsi conoscere suonando con le band della zona. Scrive già canzoni, ne ha moltissime nel cassetto che ancora non hanno visto la luce. Ma per ora va bene così, gira i locali con il Last Exit e con i ragazzi della Newcastle Big Band, rivelandosi già un vero talento, e conquista le ragazze. Una soprattutto, l'attrice irlandese Frances Tomalty, che gli darà due figli prima del divorzio datato 1982. Trudy Styler invece, conosciuta poco dopo e con cui forma tuttora una coppia di ferro, anche grazie pare al tantra, gliene darà quattro. Credo che una relazione lunga, mi sembra ovvio dirlo, dipende dallo stare bene insieme. Come si può definire stare bene con qualcuno? Stare bene con qualcuno, secondo me, significa comunicare. Io sono una grande comunicatrice. Mi piace molto parlare anche delle sensazioni, dei miei sentimenti. In una relazione forte è importante dirsi come si sta, cosa si prova, cosa si vuole. Una sera del 76, mentre sta cenando, Sting riceve una telefonata. Si alza da tavola un po' spazientito perché non sopporta di essere interrotto e va a rispondere. Dall'altro capo del filo c'è un ragazzo che ha incontrato solo in una occasione, quando di passaggio a Newcastle era venuto a sentire Last Exit in un pub. Sting capisce subito chi è. Avevano parlato a lungo di musica quella sera. Immediatamente la telefonata prende un'altra piega, a dir poco entusiasta. Quel ragazzo chiede a Sting di raggiungerlo a Londra per formare con lui una nuova band. Stiamo parlando del secondo magnifico incontro del destino del pungiglione inglese, quello con Stuart Copeland, il batterista dei Police. La gente pensa che Sting sia arrogante. Lo era da giovane, quando non era famoso. Oggi, nonostante abbia servito ovunque, è invece molto umile e ha un forte attaccamento alla famiglia. Con Sting ci sentiamo ancora spesso. Mi invita ad andarlo a trovare in Toscana. Non potrebbero essere più diversi, Sting e Copeland. Nell'aspetto, nel carattere, nell'impostazione musicale, nel background. Se Sting ha condotto finora un'esistenza tranquilla nella provincia inglese, ha una moglie ed è a stento uscito dai confini dello Stato, Copeland è al contrario un vero cittadino del mondo, catapultato nella Londra del punk dopo una vita di scorribande attraverso i continenti. Ultimo di quattro figli, è nato nel 52 in Virginia, Stati Uniti, da una madre archeologa scozzese e un padre agente della CIA che negli anni 30 era stato trombettista nell'orchestra jazz di Woody Herman. È da poco che ho cominciato ad apprezzare il jazz. Mio padre era un jazzman e ha sempre cercato di farmelo ascoltare. Ma io non avevo mai tempo, preferivo altro. E adesso, piano piano, lo sto scoprendo. Adesso il jazz mi diverte. Quando Stewart ha 9 mesi, la famiglia Copeland si trasferisce al Cairo e pochi anni dopo a Beirut, dove lui studia alla scuola americana. Impara l'arabo e incomincia a interessarsi alla musica e suo padre, che ne intuisce il talento, gli fa dare lezioni dai più grandi batteristi libanesi. Può permetterselo, le frequentazioni sono di altissimo livello e in casa si organizzano spesso cene con grandi intellettuali e politici che i 6 domestici coccolano nel rispetto della tradizionale ospitalità medio orientale. I Copeland si spostano in Europa, Inghilterra, e Stewart ha la stessa folgorazione musicale che per un segno del destino ha anche Sting. Entrambi, senza saperlo, perché ancora non si conoscono, sono al concerto di Hendrix. Entrambi uscendo non sono più gli stessi. È stata una delle prime cose che ci siamo raccontati, io e Stewart. Eravamo entrambi sconvolti dalla potenza di quel ragazzo sul palco. Nel 76, dopo una breve avventura col gruppo progressive dei Curved Air, che aveva raggiunto una certa notorietà, l'inquieto e cosmopolita Copeland va a trovare suo fratello maggiore a Londra. Miles, futuro manager dei Police, ha preso un ufficio al piano di sotto di quello dei Sex Pistols, proprio di fronte al 100 Club dove suonano, oltre a Sid Vicious e compagni, i Clash, i Buzzcocks, i Damned. Stewart, in cerca di qualcosa di alternativo al rock dei dinosauri, si ritrova catapultato nel pieno del ciclone punk e del suo filone discendente, la New Wave. Una stagione controversa, rapida, ma che ha lasciato segni indelebili nella cultura, non solo musicale. L'onda punk ha travolto il mondo partendo dalla sua culla, Londra. Stewart Copeland, 25enne benestante e colto, rompe le convenzioni, inforca le spille da balia, si ritrova con gli amici a Camden Town e decide di formare un trio. Potrebbe chiedere a qualcuno del giro, suonano praticamente tutti, ma lui ha in testa un nome ben preciso, Sting. L'ha visto con il Last Exit e sente che quel ragazzo di provincia così lontano dal fervore della capitale può riservare sorprese. Lo chiama e lui, ingabbiato in una vita che sente non sua, molla tutto per provarci. Stewart recluta anche il chitarrista Henry Padovani, tecnicamente modesto ma molto grintoso, e nel gennaio 1977 il gruppo comincia a provare. Nascono i Police. Era abbastanza difficile convivere, nel senso che eravamo praticamente fratelli. Non avevamo soldi, quindi dividevamo la casa, il cibo e spesso abbiamo dormito nello stesso letto. Mio Dio, che periodo. Quindi combattevamo proprio come fratelli perché avevamo la stessa passione per la musica. Facevamo finta che ci fosse una democrazia, ma non era vero. Ognuno cercava di far fare agli altri quello che voleva. Abbiamo discusso così tanto e litigato anche. Ci volevamo molto bene. Ce ne vogliamo ancora. Impossibile definirli totalmente rock, tantomeno si può liquidarli come gruppo pop. Davvero punk, nonostante l'approccio iniziale di Copeland, non lo sono mai stati. I Police sono nella storia perché unici, inclassificabili in una categoria definita, completamente fuori dagli schemi. Sting, cantante e autore, ha sfornato classici senza tempo. Gli altri, grandi musicisti e interpreti, hanno lasciato il segno sia nel cuore dei cultori sia dei semplici appassionati. Nel 77 cominciano le prove e tengono i primi concerti in giro facendo i conti con la concorrenza. Clash e Sex Pistols tollerano i Police, ma non li considerano dei puri. C'era come un giro più intimo di cui non facevamo parte e nel quale non cercavamo di penetrare. Certo, non avrei disdegnato di farne parte, ma non avrei perso la calma perché Dave Vanian aveva rifiutato di parlarmi una sera al Roxy. Padovani non è all'altezza degli altri due, bravo e bravo, ma le composizioni di Sting diventano sempre più complesse e fa fatica a seguirle. Così Copeland chiama il chitarrista Andy Summers, veterano del rock dalla vastissima esperienza, che prende presto il posto di Padovani. A novembre del 78 esce il primo LP intitolato Outlandos d'Amour, che contiene già delle perle, da Roxanne a Can't Stand Losing You, a So Lonely, a Next to You. Lo stile mescola il lato più reggae del punk a giri di basso avvolgenti e una batteria fatta di colpi secchi ed esplosivi, come mai nessuno aveva usato. Certo, non è tutto rose e fiori. In qualche concerto c'è più gente sul palco che sotto, ma loro non mollano e il tempo gli dà ragione. Regatta the Blank lancia i Police in tutto il mondo, diventando uno dei dischi dell'anno. Tra il 79 e l'80 i tre partono per una lunga tournée mondiale che tocca luoghi mai raggiunti prima da una rock band. Non solo tappe classiche, dunque, ma anche mete esotiche. Suonano a Hong Kong, sono il primo gruppo rock occidentale a suonare live a Bombay, volano dal Cairo ad Atene e qualche volta tengono anche due concerti per sera. Ovunque, come ricorda Copeland, si portano a casa qualcosa. Io, da batterista, sono rimasto profondamente affascinato dai ritmi dell'Africa. Ho cercato di assorbirli e di riusarli a modo mio. Il primo magnifico incontro del destino di Sting è quello con la musica di Jimi Hendrix. Una cosa che lo unisce al suo secondo magnifico incontro, quello con il batterista Stuart Copeland, cofondatore dei Police, rock band entrata nella storia a colpi di classici intramontabili. Successo planetario, tournée mondiali, dischi che vendono milioni di copie, circa 50 milioni in totale. Finché nell'83 esce l'ultimo album, Synchronicity, per molti un vero capolavoro. I contrasti interni, soprattutto tra Copeland e Sting, con Summers che cerca di mediare, si esasperano fino alla rottura mai ufficializzata davvero. Sting ha composto 8 brani su 10, sa di essere il leader del gruppo e vuole spiccare il volo da solo. All'apice del successo, i tre annunciano dunque lo scioglimento. Amici fraterni, legati da un rapporto di odio e amore, in realtà continuano a sentirsi e a collaborare, ma ognuno dei componenti comincia una sua nuova carriera. Dico sempre che è stato come un inverno. Molti sottovalutano l'inverno come stagione. Io invece credo che sia una stagione importante per noi, perché è la stagione della riflessione, è la stagione dell'immaginazione e dei fantasmi. Vedi, psicologicamente è molto importante, perché ci consente di riflettere sul passato e di guardare alla primavera. La primavera, così la definisce Sting, è una rinascita. La sua comincia dopo la rottura con i Police, mai ufficializzata ma che ha lasciato a lungo i fan speranzosi di un ritorno. Il primo album da solista, The Dream of the Blue Turtles, è datato 1985 e in un anno diventa 3 volte disco di platino. Anche da solo Sting si conferma uno degli artisti più influenti del panorama musicale del nostro tempo. Inquieto, curioso, continuamente alla ricerca di sperimentazioni e contaminazioni, fa una cover di Little Wing di Hendrix, sale sul palco dell'Umbria Jazz col pianista Gil Evans e il sassofonista Brent Ford Marsalis. Canta con Gianna Nannini canzoni popolari di Bertolt Brecht, registra un lavoro con Frank Zappa, fa l'attore, riarrangia con Ziggy Marley una canzone dei Police in chiave reggae. È eclettico e appassionato. Passa la maggior parte del suo tempo in giro per il mondo, ma considera la sua casa la sua tenuta in Toscana, dove vive con Trudy e i loro figli, due dei quali nati in Italia. Un'intera collina di oltre 300 ettari tra il Chianti e il Valdarno. La pace tra oliveti, vigne, pascoli e boschi. Senza dubbio è il posto perfetto per me, dove ho scelto di crescere i miei figli. C'è il ritmo che mi piace, lì mi sento a casa e posso scrivere le mie canzoni. Ho tanti amici italiani che mi vengono a trovare, come Zucchero, oltre che per il Newcastle tifo Fiorentina. Il calcio mi è sempre piaciuto e seguo la mia squadra italiana appena posso. Ma oltre che per la sua musica, Sting è noto per la sua filantropia. Tutto comincia con il suo terzo magnifico incontro del destino, quello con Martin Lewis. Giornalista, comico, conduttore radiofonico e televisivo, produttore, Martin Lewis sembra dotato per qualsiasi cosa si metta a fare. Il merito va a una inclinazione naturale unita a una formazione autodidatta, visto che ha frequentato una scuola privata fino ai 14 anni ed è stato espulso, e poi non si è mai più reiscritto. I media, di solito avari di complimenti, con lui sono invece da sempre generosi. Un giorno uscirà il performer represso e Martin Lewis si trasformerà in Mel Brooks. New York Times. Impossibile per lui sottrarsi a una dichiarazione travolgente. Sunday Times. Il Diderot dell'enciclopedia della musica. Variety. Il politicamente scorretto Lewis è davvero un Leonardo. Un vero uomo del Rinascimento che sembra aver fatto quasi tutto nel mondo dello spettacolo. LA Weekly. Nato nel 52 in Inghilterra da una famiglia ebrea ortodossa e adottato da Hollywood, Lewis ha fatto dell'eclettismo una chiave professionale e umana. Ha imparato un mestiere lavorando fianco a fianco con il suo mentore, Derek Taylor, il mitico press agent dei Beatles. È lui che gli ha insegnato i rudimenti del marketing e che gli ha fatto capire come la teoria vada sempre abbinata al buon senso. Da Taylor, Martin Lewis ha preso la capacità di stare sempre coi piedi per terra, mentre dai suoi amici Monty Python ha ricevuto in dono uno spiccato gusto per il surreale e l'inclinazione a prendere sempre la vita con leggerezza. Una cosa fondamentale, relativizzare i propri problemi, che serve anche ad aiutare gli altri. Sono sempre stato molto inquieto, le cose mi appassionano moltissimo, ma ho sempre bisogno di sfide nuove. Anche con le persone faccio lo stesso. Non posso dire che mi annoiano, però ho sempre bisogno di conoscerne di nuove, per avere nuovi stimoli da affiancare ai vecchi. Fecondo produttore di musica, Martin Lewis va particolarmente orgoglioso di un'opera per cui tutti lo citano. Ha co-creato e prodotto la serie Secret Policeman's Ball, lunga serie di eventi organizzati in Inghilterra per raccogliere fondi a favore di Amnesty International. La storia è questa. Lewis, a metà degli anni 70, si siede a un tavolo con John Cleese, membro dei Monty Python, e il direttore di Amnesty, Peter Love. Tra un bicchiere di birra e qualche battuta sulla regina, discutono dell'importanza di spingere i giovani a occuparsi di diritti civili. Come? Proponendo un'iniziativa che li coinvolga, parlando il loro linguaggio, quello della musica. L'idea si rivela vincente. Anno dopo anno, tutte le più grandi rockstar sono felici di partecipare. Per Sting è l'ispirazione per un nuovo ciclo di vita, legato alla lotta per la giustizia sociale, alla difesa per l'ambiente e alla filantropia. La mia prima apparizione in assoluto da solista è stata quando Martin Lewis mi ha chiesto di cantare al Secret Policeman Ball. Mi è piaciuto e due anni dopo ero da solo sul palco a fare concerti. Quando lo vogliamo prendere in giro, gli diciamo che in un certo senso è stato lui, Martin, che ha fatto sciogliere i Police. Come dei vecchi amici che ne hanno passate tante, qualche volta i Police si riuniscono. Suonano, litigano e ricordano i vecchi tempi, quando Hendrix faceva sognare, quando alcuni concerti mettevano i brividi. Poi ognuno per la sua strada, ognuno frutto di quello che è stato. Sting è diventato un sessantenne dall'aria fascinosa e ancora la musica non lo ha stancato. Passa la maggior parte del suo tempo nella sua tenuta in Toscana, con in mano un bicchiere di Chianti, ma è sempre pronto a ripartire. E chissà che proprio in questo momento non stia avendo un altro magnifico incontro del destino.